Ma in arrivo una nuova ondata di gelo e neve, ne parleremo abbondantemente fra poco. Prima però andiamo alla Camera, dove è iniziata la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sul decreto legge cosiddetto svuota carcere. Allora ci colleghiamo con la Camera e con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, Piera, è in corso la prima chiama per la fiducia sul provvedimento svuota carcere. Il voto sul decreto è previsto martedì. Votano no la Lega, l'Italia dei Valori, si astengono i radicali e Popolo e Territorio. Via libera da parte di PD, PDL e UDC. Il decreto è in scadenza il 20 febbraio, permetterà a 3.500 detenuti di lasciare il carcere a favore di altre misure cautelari come gli arresti domiciliari. Attacca Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, sentiamolo. Ancora una volta assistiamo alla resa incondizionata dello Stato e delle istituzioni ai criminali e ai delinquenti. Siccome mancano posti letti nei carceri, allora si mette fuori i delinquenti. Anche nella maggioranza però non mancano i distinguo, il Partito Democratico vota sì, ma vuole anche la depenalizzazione per i reati minori e il ricorso alla pena alternativa come il lavoro socialmente utile. Mentre il PDL vota con il dovuto senso critico perché siamo di fronte ad un governo tecnico che comincia ad assumere i ruoli di un governo politico, almeno questo è quanto ha detto Manlio Contento intervenendo in aula. Invece completamente favorevole l'UDC di Pier Ferdinando Casini e per il momento qui da Monte Citorio è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Torniamo invece sul maltempo, come dicevamo in apertura, in arrivo la tormenta balcanica Blizzard. Da domani quindi le temperature riprenderanno a scendere e tornerà la neve in molte regioni, soprattutto al centro nord. Emilia Romagna, Marche e Abruzzo saranno le regioni più colpite. Attesi 30 centimetri di neve anche a Roma, dove questa mattina il sindaco Gianni Alemanno ha incontrato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, da ieri a capo del coordinamento dell'emergenza. Partiamo dunque dalla capitale, facciamo il punto in diretta con Andrea Viali. Sì, con questi 30 centimetri di neve che sono attesi a Roma fra domani e sabato, si rischia il ripetersi delle scene viste la scorsa settimana, e proprio per scongiurare un nuovo blocco della capitale stamattina, come ricordavi, c'è stato un vertice, un incontro tra il sindaco Alemanno e il capo della Protezione Civile, che, archiviate almeno per oggi le polemiche, hanno fatto il punto sugli interventi da mettere in campo e scuole e uffici resteranno chiusi, ha annunciato al termine di questo incontro Alemanno, ma sentiamo le sue parole. È stato, diciamo così, deciso con l'avallo appunto della Protezione Civile Nazionale, della provincia di Roma, della regione Lazio e della prefettura di Roma, di disporre la chiusura delle scuole per domani e dopodomani e degli uffici pubblici, con le eccezioni che il prefetto determinerà con l'ordinanza che firmerà nel primo pomeriggio. Questo è legato a una situazione di precipitazioni che appaiono molto simili come intensità rispetto a quelle della settimana scorsa. Per quanto riguarda invece la circolazione stradale, dalle 6 di domani mattina fino alle 24 di sabato, in caso di neve per gli automobilisti ci sarà l'obbligo di montare le catene, quindi non soltanto quello di averle a bordo. Nel trasporto pubblico agli autobus sono state fornite gomme termiche, le metropolitane funzioneranno mentre i taxi scioglieranno i turni, quindi in giro ce ne dovrebbero essere di più. Alemanno infine ha anche chiesto all'ANAS di concentrare più mezzi sul grande raccordo anulare per evitare blocchi. Per ora è tutto. Grazie Andrea. E a proposito dei disagi verificatesi lo scorso weekend nella capitale, nell'informativa di questa mattina in Senato il ministro dell'Interno Cancellieri, che ha parlato di un'ondata di freddo eccezionale che non si registrava da ben 30 anni, ha difeso l'operato della Protezione Civile che, ha detto, avvertì della situazione. Relativamente alla città di Roma, colpita pesantemente, il Dipartimento della Protezione Civile ha raccomandato nella riunione del 2 febbraio ai rappresentanti degli enti territoriali la puntuale applicazione delle pianificazioni predisposte per le precipitazioni nevose. Preoccupa la situazione in provincia di Avellino, particolarmente colpita infatti l'Alta Irpinia, dove molti comuni sono isolati. Luigi Famiglietti, sindaco di Frigento, denuncia: è come per il terremoto dell'80, nessuno si sta rendendo conto della gravità della situazione. Il sindaco è intervenuto questa mattina in prima edizione. Stiamo rivivendo la stessa sensazione che avevamo nell'80 dopo il terremoto, quando solo molti giorni dopo il terremoto si prese contezza di quello che era successo. Fortunatamente oggi l'emergenza è minore ovviamente rispetto al terremoto dell'80, però comunque siamo sommersi dalla neve. Nel centro storico, che ha 900 metri di altezza, abbiamo più di 2 metri di neve. Le strade io sono riuscito a mantenerle pulite, per quello che è possibile definirle pulite. Il problema però sono i grossi cumuli di neve ai bordi delle strade, soprattutto nel centro storico. Poi ci sono interi vicoli che purtroppo non si riesce a pulire. I paesini che stanno alla fine della provincia di Avellino, al confine con la Puglia e la Basilicata, sono paesini che sono attualmente isolati. In alcuni paesi come Monteverde, che conta 500 anime, per questo magari viene dimenticato, ci sono dalle cronache dei giornali locali addirittura 6 metri di neve lungo la provinciale. Eppure il prefetto Avellino non ha ancora disposto l'intervento del genio militare. Il nostro presidente Campano Caldoro ieri diceva: non c'è emergenza in Campania, perché sembra sempre che la Campania finisca a Napoli. E purtroppo anche l'Irpinia fa parte della Campania. Ma veniamo a quello che ci aspetta. Dunque, in arrivo il blizzard, ma che cos'è? Lo abbiamo chiesto a Guido Castellano della Società Meteorologica Italiana. Blizzard è sostanzialmente una tempesta di neve, è un termine che viene utilizzato soprattutto nel Nord America per caratterizzare le bufere violente di neve che riducono la visibilità con temperatura molto bassa. Tecnicamente, per essere definita una tempesta di neve, un blizzard, deve esserci una nevicata con almeno 50-60 km orari di vento, temperature sui meno 5, meno 10, anche al di sotto dei meno 10 gradi e visibilità ridotta per la nevicata farinosa, fine e turbolenta anche al di sotto dei 200 metri. Quindi se sussistono queste condizioni possiamo parlare effettivamente di blizzard, altrimenti si può parlare all'italiana semplicemente di una bufera di neve. Naturalmente in questi giorni, in queste ore, continueremo a monitorare la situazione, a tenervi informati su quanto accade, come stiamo facendo ormai da giorni. Ed ora cambiamo argomento, perché sono le ultime ore di trattative per evitare il default della Grecia. Non si arriverà ad alcuna decisione. La doccia fredda arriva a poche ore dal vertice dell'Eurogruppo e arriva da Berlino, da una fonte governativa vicina alle trattative, che sottolinea come non ci siano le basi per un'intesa. E così quella che sembrava essere diventata una questione marginale, il taglio delle pensioni da parte di Atene, torna ad essere centrale per la chiusura dell'accordo e il via libera da parte di Bruxelles ai 130 miliardi di euro vitali per la Grecia. I partiti ellenici hanno detto sì al taglio del 20% del salario minimo, alle migliaia di licenziamenti, alle privatizzazioni, ai tagli alla spesa farmaceutica, ma sul taglio delle pensioni hanno chiesto altro tempo per recuperare i 300 milioni necessari per non sacrificare anche la previdenza. Appianati invece i problemi con i creditori privati, le banche hanno accettato nuovi titoli al 3,6% con una perdita del 70% sul debito. All'accordo i lavoratori greci hanno risposto con lo sciopero generale. Domani è sabato, il paese si fermerà, in piazza ci saranno anche molti di quel milione di disoccupati che ormai conta la Grecia, numero raddoppiato rispetto a 2 anni fa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la riforma degli ammortizzatori sociali e la riduzione della precarietà, il governo deve mettere nuove risorse. A parlare così il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, mentre proseguono i tavoli governo parti sociali per la riforma del mercato del lavoro. Ci vogliono soldi per la riforma degli ammortizzatori sociali e la riduzione della precarietà. Susanna Camusso replica così al ministro del lavoro Fornero, che ieri aveva sottolineato come per gli ammortizzatori ci sia un drammatico vincolo di risorse, tradotto nessuna risorsa aggiuntiva. Ma la leader sindacale non ci sta, non si può fare senza soldi, non lo possono pagare i lavoratori e non si possono caricare le imprese. E ad incalzare il ministro è anche il segretario della UIL Angeletti, secondo il quale senza una revisione degli ammortizzatori sociali la riforma del mercato del lavoro non ha senso e comunque sono necessarie nuove risorse. Fiducioso invece su un possibile accordo con le imprese, si dice Bonanni della CISL. Le parti sociali, proprio da oggi, apriranno un tavolo permanente di confronto per definire una linea comune con cui presentarsi al prossimo incontro con il governo, che dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana. Un confronto che per ora lascerebbe sullo sfondo il dibattito sull'articolo 18. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il premier Mario Monti è atterrato nella notte italiana a Washington e questa sera vedrà il presidente americano. L'Italia ha fatto passi avanti impressionanti, dice Barack Obama oggi in un'intervista alla stampa. Da Washington, Mario Platero. Obama ha una missione, ha la missione di rafforzare Monti sia sul piano interno, quindi vis-à-vis sia l'Europa. Quindi con questa intervista, per esempio, Obama dice chiaramente che l'Italia ha un ruolo non soltanto importante, ma l'Italia ha fatto dei passi da gigante. Però domani, sai, una cosa sono le parole che giungono dalla Casa Bianca, una cosa sarà domani vedere Monti e Obama fianco a fianco. Il punto centrale di questo viaggio è proprio quello di rimettere un pochettino l'Italia al centro di una partita transatlantica, di una partita economica importante. Tra l'altro c'è una sintonia, direi di vedute, tra Barack Obama e Mario Monti, c'è una sintonia caratteriale, si troveranno sulla stessa lunghezza d'onda. E torneremo a parlare della visita di Monti negli Stati Uniti in America 24 in onda alle 13.45, sempre con il nostro Mario Platero. Chiudiamo invece questa prima parte di GR24 andando a Berlino, dove questa sera si apre il Festival del Cinema. La regina Maria Antonietta questa sera aprirà le danze della 62esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino fino al 19 febbraio nella capitale tedesca. Addio mia regina di Benoît Jacquot racconta gli ultimi giorni alla corte di Versailles nel luglio 1789 durante lo scoppio della rivoluzione francese attraverso gli occhi della servitù. La sovrana di Jacquot, interpretata da Diane Kruger, è una donna che pensa soprattutto a salvare figli e arriva alla ghigliottina con dignità, molto diversa dal ritratto che ne fece Sofia Coppola nel 2006 con Marie Antoinette. Domani invece è tempo dell'attesissimo film di Stephen Daldry sull'11 settembre, visto dalla prospettiva di un bambino che ha perso un genitore nel crollo delle Torri Gemelle, molto forte e incredibilmente vicino. Vede schierati Tom Hanks, Sandra Bullock e l'inossidabile Max von Sydow, sodale di Bergman. In tutto il festival presenterà il numero record di 400 titoli. Sarà una dura lotta, soprattutto per il presidente della giuria del concorso, Mike Lee. Per ora un premio solo è sicuro, l'orso d'oro alla carriera di Meryl Streep, che arriva con il suo ultimo The Iron Lady, ritratto del primo ministro inglese Margaret Thatcher, per la cui interpretazione è in corsa agli Oscar come migliore attrice. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Decreto svuota carcere, alla Camera il voto sulla fiducia. Di Pietro dice: così lo Stato si arrende ai delinquenti. Sull'Italia in arrivo il blizzard, la tempesta di neve. Il ministro Cancellieri: previsti nel weekend eventi eccezionali che non si vedevano da oltre 30 anni. E il sindaco Lemanno assicura: previsti 30 centimetri di neve nella capitale, ma Roma è pronta. Chiusi per altri due giorni scuole e uffici pubblici. Grecia: si tratta ancora per evitare il default. La Commissione europea non conferma la proroga di 15 giorni concessa dalla Troica. Di tutto questo abbiamo parlato nella prima parte di GR24, ora invece ripartiamo dalla cronaca e queste sono davvero brutte storie. Ieri la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per le maestre dell'asilo nido Primi Passi di Casarile, in provincia di Milano, ritenute colpevoli di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei bambini. Oggi invece l'arresto di un'altra insegnante, 48 anni, questa volta a Rovigo, per sospetti maltrattamenti ai suoi alunni della scuola primaria. I particolari da Bruno Zito, dirigente della squadra mobile. Noi siamo venuti a conoscenza di situazioni particolari all'interno di questa scuola, chiaramente abbiamo voluto vederci un po' più chiaro e abbiamo scoperto in realtà che da atteggiamenti strani di bambini che avevano a casa, del tipo nervosismi, mal di pancia, mal di testa e quant'altro, in realtà il tutto era dovuto a atteggiamenti poco ortodossi che l'insegnante aveva a scuola: schiaffi sulla faccia, sul capo, strattonamenti fino a fargli sbattere la testa sul banco, calci sulle caviglie e punizioni del tipo restare in piedi per ore e ore in un angolo. Questo chiaramente era un atteggiamento che rendeva i bimbi sicuramente irrequieti in questo senso, per cui siamo intervenuti e abbiamo riferito il tutto alla Procura della Repubblica, la quale, a seguito dell'emissione di un'ordinanza, ha messo la signora agli arresti domiciliari. Bambini di che età? Noi abbiamo sentito bambini della terza elementare, quindi siamo intorno agli 8 anni. Un proscioglimento per prescrizione lo chiedono la Corte e i difensori di Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari a Milano nel processo Mills. Secondo i legali dell'ex premier sarebbero già scaduti i termini e per questo i giudici dovrebbero dichiarare il reato prescritto. Per l'accusa invece la prescrizione scatterebbe solo fra qualche giorno. Arrestati tre familiari della testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola di Rosarno, morta nel 2011. Si era suicidata ingerendo acido muriatico il 22 agosto del 2011. Maria Concetta Cacciola, 31 anni, non aveva lasciato spiegazioni, spiazzando anche i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. La donna era figlia di Michele Cacciola, cognato del boss Gregorio Bellocco, il capo dell'omonima cosca di 'Ndrangheta di Rosarno, tra le più potenti del litorale tirrenico. Nel maggio del 2011 Maria Concetta si era presentata spontaneamente ai magistrati per fare alcune dichiarazioni. Ai PM aveva riferito notizie riguardanti le attività illecite della sua famiglia. Ora proprio tre familiari della donna sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza o minaccia per costringerla a commettere un reato, cioè ritrattare le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. Contestualmente sono stati eseguiti anche 11 provvedimenti di fermo con l'accusa di associazione mafiosa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Se si producono pomodori è facile, ma se si gestiscono siti internet e social network, dove si pagano le tasse? Bella domanda, se l'è posta anche la SEC, l'autority americana di regolamentazione della borsa valori, che ha obbligato le aziende web quotate in America a chiarire quali sono i benefici fiscali di cui godono. Google, secondo la SEC, avrebbe ad esempio risparmiato circa 7,6 miliardi di dollari grazie a quello che i tributaristi chiamano doppio irlandese e panino olandese. Sembra il menù di un fast food, in realtà è un meccanismo che permette a Google, nata in California, di concedere in licenza la proprietà intellettuale a Google Irlanda, che però ha sede alle Bermuda. Questa possiede un'altra Google in Irlanda, unico paese in Europa ad avere una tassazione per le aziende al 12,5%. Ma non basta, le royalties passano per l'Olanda e alla fine Google paga di tasse il 2% alle Bermuda. Se vi inizia a girare la testa, è normale, si tratta di un triplo salto mortale, legale, ma al confine con l'elusione fiscale. Ne aveva scritto anche Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera di qualche anno fa. Un'indagine partita dalla Guardia di Finanza di Milano è stata chiusa poi da Carlo Nocerino, che ha chiesto l'archiviazione. Secondo il magistrato, non si può individuare in modo certo e univoco quali sono i ricavi di Google originati in Italia. Di sicuro Google Italia ha un centinaio di dipendenti a Milano, chiude molti contratti pubblicitari qui, ma fattura pochissimo e qui non paga le tasse. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 7 arresti e diversi sequestri di ingenti valori è il bilancio di un'operazione anti-evasione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia. I dettagli dal colonnello Domenico Grimaldi. La compagnia della Guardia di Finanza di Pavia, insieme alla Procura di Monza, hanno svolto delle indagini che hanno consentito di scoprire una articolata organizzazione composta da numerose cooperative, in particolare 13, che metteva in atto un grosso giro di evasione fiscale, o meglio frode fiscale, perché sono state arrestate 7 persone, di cui 4 ai domiciliari. Soprattutto sono stati eseguiti numerosissimi sequestri, sia mobiliari, di immobili anche di pregio, sono state sequestrate delle società immobiliari, ma anche di conti correnti o comunque di somme di denaro, per un valore di 11 milioni di euro. L'evasione è notevolissima, perché parliamo tra IVA e imposte dirette come imponibile di 150 milioni di euro. L'organizzazione si avvaleva di alcune società che cosiddette cartiere, che erano società fittizie, quindi non lavoravano di fatto, che emettevano solo false fatture che poi le nostre società indagate utilizzavano per creare dei costi fittizi. Questo chiaramente abbatteva l'utile e quindi non si pagavano le tasse all'erario. Presentazione ufficiale questa mattina per la 51esima edizione del Salone del Mobile. Milano si conferma capitale internazionale dell'arredo con l'appuntamento che si svolgerà come sempre nei padiglioni di Roffiera dal 17 al 22 aprile. Saranno oltre 2.500 gli espositori e sono attesi più di 300.000 visitatori. L'attenzione quest'anno è puntata in particolare sui giovani, come spiega il presidente di Cosmit, Carlo Guglielmi, al microfono di Irene Privitera. Quello del 2011 è stato il cinquantenario del Salone del Mobile, quindi aveva in qualche modo un'area celebrativa di tutto quello che si era fatto. Oggi parte un nuovo cinquantennio e parte oltretutto con l'anniversario dei 15 anni del Salone Satellite, quello dedicato ai giovani, che vede ancora una volta un record assoluto di presenza di giovani che arrivano da tutto il mondo, sono 140 gli stand, circa 750 i designer, in un momento in cui il dibattito sui giovani è così vivo. Crediamo anche attraverso questa iniziativa e le iniziative vi proporremo di dare un contributo nostro su questo argomento. Credo che contro la crisi ci sia soltanto la necessità e la volontà di lavorare tanto, di dare spazio alla creatività, di cercare formule nuove proprio con l'aiuto dei giovani. Il ciclista tedesco Jan Ullrich è stato squalificato per 2 anni dal TAS, il Tribunale per l'Arbitrato dello Sport di Losanna, per doping. Ullrich si è ritirato dall'attività agonistica nel 2007. La squalifica, che ha effetto retroattivo, è da considerarsi terminata il 22 agosto 2011 e pertanto tutti i risultati ottenuti dall'atleta a partire dal 1 maggio 2005 sono da considerarsi annullati. Proprio nel 2005 Ullrich era arrivato terzo al Tour de France. È già rientrato in Italia l'ormai ex CT dell'Inghilterra Fabio Capello. Mi dispiace per Fabio, un bravo allenatore, una persona per bene, così il premier britannico David Cameron nel corso di una visita ufficiale in Svezia. Ritengo e ritenevo giusto che John Terry potesse mantenere la fascia di capitano. Appena domenica sera Fabio Capello ribadiva così alla Rai la sua posizione sul caso di John Terry, difensore del Chelsea e della nazionale, degradato dalla Federcalcio inglese dal ruolo di capitano causa le presunte frasi razziste rivolte al giocatore del Queen's Park Rangers, Anton Ferdinand. Accuse tutte da dimostrare da parte del tribunale competente, decisione quindi non condivisa da Capello, messo però sotto pressione dalla stampa inglese. Ieri la frattura definitiva dopo l'incontro a Wembley tra il CT e i vertici federali. Capello che si dimette a pochi mesi da Euro 2012, la Football Association che fa ben poco per trattenerlo, dopo 4 anni di un rapporto che, dopo una breve luna di miele, è stato segnato dal fallimento mondiale di Sudafrica 2010. E allora Don Fabio sbatte la porta e se ne va. Il futuro? Forse la Milano nerazzurra o una scrivania da dirigente in quella Juve abbandonata dopo la tempesta di Calciopoli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 ore. Il teatro con un evento milanese. Ladies and gentlemen, Martha Wash, the original Weather Girl, and has she got news for you? Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. Prosegue, fa prezzi speciali per la settimana di San Valentino, Priscilla, la regina del deserto, il musical. Un successo dalla portata inaspettata, dice Bernadette, cioè Simone Leonardi, al microfono di Marta Cagnola. Uno spettacolo come Priscilla, diciamo che forse avrebbe, nel nostro immaginario, avrebbe attirato facilmente un pubblico tra virgolette di outsider, se mi intendi, ma ci ritroviamo invece con famiglie e bambini in prima fila che festeggiano insieme a noi. Vedere così tanti bambini e tante drag queen nello stesso luogo, nello stesso tempo, sorridere e ballare insieme, non ti nego che mi fa un certo piacere. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.